Matteo, io vorrei che tu fossi qui con me a gioire i lilanghi in fiore, con me a sentire cantar le campane, ma tu sei lontano nel Nord Vietnam. È marzo a Cantù ed è poesia la nostra poesia, ma io non ho pace. La nostra Cantù dai viali di Sao è stretta tra maglie di ferro nemico. Ma un giorno il viale dei fiori di Ren avrà nome viale del piccolo Ren. Oceo anche noi nel sud si combatte, e nel nostro cuore c'è un solo Vietnam. Il nostro Vietnam, per lui si resiste, per lui è morto il piccolo Han. Due salti e un sorriso è pieno di vita e ricco di gioia il piccolo Han. Sul braccio la giacca e due bombe a mano, è già un partigiano il piccolo Han. Ma un giorno il viale dei fiori di Len avrà nome viale del piccolo Han. Ma ecco il nemico rastrella la strada, e se ci sorprende per noi è finita. Ma in fondo alla via c'è il piccolo Han che scappa e grida, c'è la polizia. Oh piccolo Han, sei scaltro e veloce, assai più veloce di quei mercenari. Il branco s'affanna, ti insegue feroce, così tu ci salvi da quei sanguinari. E un giorno il viale dei fiori di Len avrà nome viale del piccolo Han. Tu piccolo Han, se non vicolo cieco e l'occhio riluce nel viso un po' bianco, tu prendi la bomba e sorridi sereno e quindi la lanci nel mezzo del branco. Lo scoppio, il silenzio e poi l'altra bomba, sui volti assassini c'è solo il terrore, terrore e sgomento negli occhi velati. Tu fissi quegli occhi con freddo furore, e un giorno il viale dei fiori di Len avrà nome viale del piccolo Han. Il piccolo Han ci ha dato la vita, è morto gridando viva lo zio Ho. Siamo pazzi di rabbia, di puro dolore, e il fuoco più rosso ci brucia nel cuore. Oceo, verrà marzo, una primavera, la nostra poesia allora sarà. Cantù liberata con gli alberi in fiore, col dolce profumo dei fiori di là. Da oggi il viale dei fiori di là è il nome di viale del piccolo Han.